Il Gobbo di Notre Dame. Molto tempo fa, a Parigi, il ministro Frollo era fuori per le strade per assicurarsi che tutto fosse in ordine nella grande città, quando improvvisamente un suono spezzò il silenzio della notte. Bene, tutto in ordine. Le persone nelle loro case, le strade prive di guai, tutto va bene. Che cos'è questo suono? Che cos'è? Che cos'è? Dallo a me. Ah, che creatura è mai questa? Forse può restare con me e un giorno potrebbe essermi utile. E così è stato. Frollo chiamò il bambino Quasimodo e lasciò che il ragazzo rimanesse con lui. Ma Frollo aveva un cuore malvagio, che non poteva amare il bambino. E Quasimodo non era altro che lo schiavo del ministro Frollo. Non gli era mai permesso di uscire dal campanile di Notre Dame. Quasimodo aveva un solo amico al mondo. Un uccello che volava sulle alture del campanile e gli portava tutte le notizie. Ehi! Dovresti vedere tutti i preparativi per il Festival dei Folli laggiù. Dimmi tutto. Il maestro è qui, vattene. Maestro? Bene, spero che il pranzo sia pronto e che questa volta la zuppa non sia bruciata. No, maestro, oggi sono stato molto attento. Vedremo al riguardo. Perché non è ancora in tavola? Un momento, maestro. Sii veloce per una volta, Quasimodo. Non ho tutto il giorno. Ho questo terribile incontro per il Festival degli Sciocchi che ci sarà domani. La più grande perdita di tempo di sempre. Il Festival dei Folli? Già? Con la grande parata e il canto e il ballo e i trucchi di magia degli zingari? Non starai pensando di andare, vero? E come sai così tanto del festival? Ti assicuro, maestro, non sono mai uscito da questo posto. È proprio quello che ho visto da quassù. Bene. E non pensare nemmeno di uscire. Con una faccia come la tua, la gente ti offenderà, ti prenderà in giro e ti farà del male. Dopo tutti gli anni che ti ho dato da mangiare, ti ho curato, non mi deludere. E non ti azzardare a trasformarmi in uno zimbello mostrando la tua brutta faccia in pubblico! Sì, maestro. Bene, la zuppa è buona, è un po' troppo salata, ma va bene. E ora il mio incontro. C'è questo nuovo capitano che viene oggi. Oh, è un duro lavoro essere un ministro. Lui è cattivo. Ha ragione lui. No, non è vero. E anche la zuppa è fantastica. No, non lo è. Prova tu stesso. È deliziosa. Provala. È molto buona. E di sale è semplicemente perfetta. Vedi? Frollo non ha sempre ragione. In effetti, non ha mai ragione. Vieni al festival. Non posso. Dai! È così occupato che non se ne accorgerà nemmeno. Ti porterò in un posto dove nessuno sarà in grado di vederti. Ma sarà in grado di vedere tutti da vicino. Cosa ne dici? Davvero? Io non lo so. Io e te andiamo al festival domani. Qua... Così Quasimodo decise di andare al festival. Nel frattempo, un nuovo capitano arrivò a Parigi. Posso entrare, ministro? Ah, Capitan Phoebus, benvenuto a Parigi. Il suo nuovo lavoro è pronto. Ai suoi comandi, signore. Domani abbiamo questo orribile festival degli sciocchi. Non so perché a re piaccia incoraggiare cose come i trucchi degli zingari, le danze e la musica. Che spreco di tempo! Deve assicurarsi che gli zingari rispettino la legge e se riesce a catturare qualcuno di loro mentre ruba o infrange la legge, non mostri pietà! Ai vostri ordini, signore. Siate certo che non lascerò che qualcosa vada storto al festival domani. Può andare! E il giorno del festival arrivò. La gente cominciò a radunarsi nella piazza della città. Una vecchia donna si stava dirigendo verso il festival. Non dove vai? Come osi parlare così al nostro ministro? Scusati! Scusarmi? Il mio piede è il tuo ministro che ha bisogno di scusarsi con questa vecchia donna che ha quasi ucciso. Come osi? Tu, zingara! Guardie, arrestatela! Nel frattempo, Quasimodo e il suo amico avevano trovato una tenda vuota vicino al palco dove potevano nascondersi e guardare il festival. È bellissimo! Oggi sarò incoronato re del festival! Aspetta e vedrai! Certo che lo farai, nessuno è forte come te! Che succede se non vinci? Dio aiuti l'uomo che vince! Signore e signori di Parigi, vi presentiamo ora la competizione che tutti stavamo aspettando! L'incoronazione del re dei folli! Quasimodo, come osa! Cosa abbiamo qui? Una faccia così straordinaria? Che acrobazie! Abbiamo il re dei folli quest'anno? Sì! Sì! Sì! Sì! Sì! Sì! Sì! Sì! Allora facciamolo sfilare! Ecco, il re del Festival dei Folli! Quella cosa non può essere il re del festival! Attaccatelo! Fermo! Basta con questa follia! Quella ragazza del fegato! È la stessa ragazza! Capitan Phoebus, arrestatela adesso! Per quale crimine, signore? Non osate disobbedirmi, capitano! Arrestatela! Stai bene? Sei stata gentile con me. Brutto io? Chi dice che sei brutto? Sei solo diverso. Ma poi siamo tutti diversi l'un dall'altro, no? Mua! Sei in arresto! No, non lo è. Non ti permetterò di punire qualcuno per essere stato gentile. Ma questi sono gli ordini del ministro. Combattilo e non lasciare che la ragazza se ne vada. Vieni con me. So dove sarai al sicuro. Quasimodo portò Esmeralda nel suo campanile per nascondersi. Starai davvero comoda qui. Ah, cibo, tu devi essere affamata. La mia zuppa, sì! Oh, ah, scusa! Ups, scusa! Ah, l'orribile imbarazzo dell'amore! Non ascoltarlo. Sei così dolce. La zuppa è davvero buona. Quasimodo si stava sicuramente innamorando dell'unico essere umano che fosse mai stato gentile con lui. Era così grato di avere Esmeralda con lui. Ma un giorno... Il capo della guardia della città di Parigi, il capitano Phoebus, è stato processato per tradimento e sarà punito pubblicamente domani mattina. L'uccello volò da Quasimodo e disse a Quasimodo ed Esmeralda tutto quanto. Ah, questo è tutto per causa mia. Devo aiutare il capitano. No, io sono colui che ha la colpa. Sarei dovuto restare qui e non venire mai al festival. Quack, non pensi che invece di incolpare te stesso sarebbe molto meglio aiutare davvero il capitano? Forse potrei farmi arrestare. No, mai, io... Non lascerò che succeda. Libereremo il capitano. Vieni con me. Quasimodo, Esmeralda e l'uccello si recarono nel luogo in cui il capitano Phoebus doveva essere processato il mattino seguente. Sai andare a cavallo? Ovviamente. Tutto pronto per domani. Andiamo a casa e riposiamo, d'accordo? La mattina dopo, l'intera città si riunì per vedere come il capitano Phoebus sarebbe stato punito per aver aiutato una ragazza innocente e il suo amico. Capitan Phoebus, Hai deliberatamente disobbedito ai miei ordini e aiutato a fuggire una criminale. Cosa hai da dire a tua discolpa? Non era una fuggitiva. Era una ragazza innocente che cercava di fermare la crudeltà verso un altro essere umano. Potrei perdonarti se ti scusassi. Puniscimi quanto vuoi, ma non ho fatto nulla di sbagliato. Ho solo fatto il mio dovere di soldato proteggendo gli innocenti. Ottimo! Guardie, attaccatelo! Presto, per di qua! Sono andati da quella parte, sciocchi! Quasimodo, Esmeralda e il capitano Phoebus cavalcarono a lungo finché non furono fuori dalla città di Parigi, ma Frollo e le sue guardie non smisero di seguirli. Presero una strada diversa e alla fine riuscirono a tendere loro un'imboscata. Voi pensavate di potermi scappare, vero? Non puoi arrestarci qui. Non siamo più a Parigi. Ma potete essere portati a Parigi. E tu, Quasimodo, dopo che ti ho nutrito e ti ho curato, mi tradisci in questo modo? Tu sono solo diverso, come tutti noi, e mi hai tenuto rinchiuso nel campanile per tutta la vita, trattandomi come uno schiavo? Come ti permetti, maestro? Arrestateli! Le guardie di Frollo stavano per arrestarli, quando sentirono il rumore di un esercito che si avvicinava. Videro che era l'imperatore Luigi IV. Vostra Altezza! Cosa sta succedendo, Frollo? Ve lo diremo, Vostra Altezza! Esmeralda raccontò tutto all'imperatore. L'imperatore si arrabbiò e arrestò Frollo. Esmeralda, Phoebus e Quasimodo erano liberi di andare. Bene, siete liberi di andare. Ma capitano, mi servirebbe qualcuno come voi per gestire la città di Parigi. Pensateci su. Mi avete salvato la vita. E tu hai salvato le nostre. Non ci siamo mai presentati formalmente. Salve, mia signora. Sono il capitano Phoebus e tu sei bellissima. Sono Esmeralda, capitano. E lei, signore, chi è? Lui è Quasimodo, il mio migliore amico.